Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. I rischi per la tenuta della zona euro, le dichiarazioni allarmanti del ministro spagnolo del bilancio Cristobal Montoro, le giornate nere per i mercati, la richiesta di aiuti da parte di alcune regioni spagnole allo Stato centrale, ma anche i costi telefonici con il nuovo piano tariffario per il roaming nei paesi europei. Sono questi i principali argomenti della settimana al centro di questa nuova puntata di Economia in Europa. In un'economia decisamente lenta, i rischi che arrivano dall'Europa sono forti, al di là del controllo degli Stati Uniti. Sono parole del segretario al Tesoro americano Timothy Geithner, diffuse nella giornata di mercoledì 18 luglio. Nella stessa giornata di rischi forti dalla zona euro ha parlato anche il numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke, alla Commissione Servizi Finanziari della Camera. Sentiamo. The risks to economic growth have increased. I rischi per la crescita economica sono aumentati e individuo essenzialmente due tipi di minacce. La prima risiede nella crisi dei conti pubblici e del sistema bancario della zona euro, la seconda sta nella situazione dei nostri conti pubblici. All'inizio dell'anno le criticità sui conti pubblici della zona euro si erano un po' allentate in seguito alle misure straordinarie prese dalle autorità europee e dalla BCE. Nonostante questo, le tensioni nell'area euro si sono di nuovo intensificate come conseguenza delle incertezze politiche in Grecia, della tenuta delle finanze in Spagna e del sistema bancario sia spagnolo che della zona euro. Le autorità europee hanno risposto annunciando una serie di misure, compresa la ricapitalizzazione di alcune banche spagnole e un percorso verso l'unione bancaria. Nonostante questi annunci, il sistema finanziario ed economico della zona euro rimane sotto un livello significativo di stress che si allarga al resto del mondo, inclusi gli Stati Uniti. On financial and economic conditions in the rest of the world, including the United States. E sempre nella giornata di mercoledì a rilasciare dichiarazioni ben poco ottimistiche sugli scenari dell'economia mondiale è stato l'economista Nouriel Roubini, il professore della New York University che aveva previsto la crisi nel 2008. In un'intervista alla Reuters ha parlato di una tempesta perfetta che potrebbe colpire l'economia mondiale. Sentiamo. Next year is the time where il prossimo anno può essere il momento in cui i problemi diventano troppo grandi e difficili per essere risolti e potrebbe scatenarsi una tempesta perfetta. Questo potrebbe succedere. Penso che la Grecia non uscirà dalla zona euro fino a novembre. Non prevedo alcun sconvolgimento fin dopo novembre. Attualmente ognuno pensa ai propri interessi, sul fronte dei conti pubblici o come la Cina concentrata su questioni più strutturali come il cambio di leadership. Gli europei invece vogliono evitare di staccare la spina alla Grecia fino al prossimo anno. Inoltre, non ci sarà un conflitto militare contro l'Iran fin dopo le elezioni. Ma sono preoccupato per la tempesta perfetta in cui si troverà la zona euro il prossimo anno. Inoltre, gli Stati Uniti potrebbero scivolare in recessione sulla scia di un aumento delle tasse e tagli alla spesa. Il prossimo anno, poi, se la Cina non attua le riforme necessarie, la sua economia potrebbe rallentare bruscamente. Già oggi i mercati emergenti sono in netta frenata e non solo la Cina, ma tutti i BRICS. Inoltre, se dopo le elezioni americane non si riesce a evitare che l'Iran si doti di armamenti, allora si potrebbe arrivare allo scontro. Il prossimo anno, quindi, potrebbe essere difficile risolvere questi problemi e potremmo assistere alla tempesta perfetta. Giovedì 19 luglio, nel giorno del voto decisivo al Bundestag sugli aiuti a Madrid, sono arrivate alcune dichiarazioni allarmanti dal ministro spagnolo del bilancio Cristobal Montoro. La Spagna non ha un soldo in cassa per pagare i servizi pubblici e se la Banca Centrale Europea non avesse comprato i titoli di Stato, il paese sarebbe fallito, ha detto il ministro al Parlamento. Sentiamo il commento di Luca Veronese del Sole 24 Ore. La situazione spagnola è gravissima, questo al di là del ministro Cristobal Montoro che ci ha già abituato da tempo a esternazioni o affermazioni molto pesanti, anche al limite, diciamo, per uno nella sua posizione. E è gravissima perché è evidente ormai sui mercati, ma anche nei report degli analisti, che il salvataggio delle banche promesso e concordato con l'Unione Europea, che arriverà domani al passaggio definitivo, quindi 100 miliardi per salvare le banche spagnole, non risolveranno i problemi della Spagna, che ha pesanti problemi derivanti innanzitutto dalla mancanza di crescita e a ruota dai disequilibri nei conti pubblici, l'incapacità di centrare gli obiettivi di bilancio concordati in Europa. Quindi gravissima la situazione, in tutto questo Montoro ci mette il carico, ci mette il suo e, come dicevi giustamente tu, facendo tattica guardando da una parte all'interno, perché la Spagna ha un grosso problema di contenimento della spesa pubblica che è per più di un terzo in mano alle regioni e che Montoro non può controllare quindi direttamente. Per questo dice, piange dicendo non ce la faremo mai, di modo che anche le regioni accettino i tagli imposti da Madrid. Dall'altra parte, in Europa, deve presentarsi come se ormai sono arrivati a quel punto, a un passo dal baratro e quindi non hanno più niente da perdere, come se appunto la Spagna potesse fallire da un momento all'altro e quindi l'Europa per non andare a gambe all'aria tutti assieme, dovesse decidere subito un aiuto o degli altri aiuti per la Spagna che, secondo quanto vorrebbe Montoro, dovrebbero arrivare solo o comunque nella gran parte dalla BCE, l'unica istituzione, secondo Madrid, in grado di sostenere il debito spagnolo. Veniamo alla giornata seguente, quella di venerdì 20 luglio, che ha visto le borse colare a picco e gli spread salire a livelli record proprio sulla scia della crisi spagnola. E il paese intanto era in fermento e protesta contro le misure di austerità approvate giovedì dal governo di Mariano Rajoy. Manovra per risparmiare 65 miliardi in 2 anni e mezzo, aumenti dell'IVA, soppressione delle tredicesime dei pubblici funzionari pari su 14 mensilità a circa il 7% della retribuzione annua. Ma come mai proprio quando vengono approvati degli aiuti un paese viene preso di mira in questo modo? Sebastiano Barisoni ha raccolto il commento di Antonio Poglio Salimbeni, corrispondente di Radio Cori, Il Sole 24 Ore da Bruxelles. Ma effettivamente il paradosso c'è. Io direi due cose su questo. I 30 miliardi subito servono per le urgenze e questo è un fatto positivo. Per una volta l'Eurogruppo si è mosso con una visione prospettica. Però è anche vero il fatto che l'intervento per le banche spagnole è piuttosto lungo, si saprà soltanto a settembre, fine agosto, metà settembre, quale sarà l'effettivo bisogno di capitale delle banche e i piani di ristrutturazione dovranno essere pronti un mese dopo. Insomma, è un processo lento, ma così vanno le cose. Seconda considerazione è il meccanismo antispread per frenare i tassi di interesse per paesi Spagna, ma soprattutto anche Italia ci riguarda direttamente. Il punto è, si è capito che può essere usato il fondo anticrisi europeo, ma se questo fosse davvero usato avrebbe i fondi sufficienti e questo ancora è l'eterno punto interrogativo. Alle difficoltà dei mercati si vanno ad aggiungere quelle degli enti locali spagnoli. Sempre venerdì 20 luglio la regione di Valencia ha chiesto il salvataggio allo Stato centrale usando, prima fra le regioni autonome, il nuovo strumento ideato da Madrid per fornire liquidità agli enti locali. Sebastiano Barisoni ne ha parlato con Eusebio Valdemijavilla, corrispondente dell'Avanguardia. Ma adesso c'è il pericolo che scoppie la bomba delle regioni. Questo tema delle regioni è molto grave, molto grave. Noi in Spagna abbiamo una struttura di 17 comunità autonome, come conseguenza della dittatura di Franco si è fatto questa nuova struttura dello Stato, ma adesso si vede che non si può finanziare tutto questo. E la situazione è veramente molto seria. Noi abbiamo un problema non solo economico, ma anche culturale e psicologico. L'Spagna per molti anni ha avuto una crescita fortissima, ha avuto un boom per 15-20 anni e per la gente è molto difficile di accettare questi sacrifici. Noi abbiamo creduto che eravamo ricchi, e questo si è visto che non è vero. La gente ha ricevuto la moneta unica nel 2002 con molta gioia, hanno pensato finalmente abbiamo una moneta forte, lasciamo una moneta debole come la peseta, ma adesso vedono che siamo in una trappola, che non abbiamo strumenti, che non abbiamo la possibilità di una devaluazione, si deve fare una devaluazione interna, brutale, e questo non si accetta, no, non si accetta facilmente. Anche la Catalogna chiederà l'aiuto del governo centrale spagnolo. Lo ha reso noto martedì 24 luglio il responsabile dell'economia del governo catalano, Andreu Mas-Colell, alla BBC. Sentiamo questo passaggio. The current situation is Catalonia has no other bank. La situazione attuale è che la Catalogna non ha a disposizione altra banca che il governo spagnolo. Questo è ciò che succede. Tutti conoscono la situazione sui mercati ed è normale che ci rivolgiamo al tesoro spagnolo. La ragione è perché dobbiamo gestire il nostro debito e poi perché ci sono degli obiettivi da raggiungere in tema di finanze pubbliche. Obiettivi che devono essere finanziati. Sembrerei provenire da un altro pianeta se non dicessi che sono preoccupato di un'eventuale chiusura dei mercati nei confronti della Spagna. Mi auguro che le politiche europee agiscano rapidamente, in modo che questa eventualità negativa non si concretizzi. Mi auguro anche che si agisca in modo equilibrato, così da riportare la fiducia ed evitare la chiusura dei mercati. Se si riesce a fare ciò, allora sarà un bene per la Spagna, per la Catalogna e anche per l'euro. E la nuova settimana si è aperta con un vero e proprio lunedì nero per i mercati, con cali importanti in tutte le borse europee e nuovi aumenti per gli spread di Roma e Madrid. Il differenziale fra i titoli decennali italiani e i bund tedeschi ha raggiunto un record in apertura nella mattinata di martedì a 545 punti base. Dopo solo 20 giorni dalle decisioni dell'Eurogruppo sullo scudo antispread e sugli aiuti alla Spagna, la fiducia nel vecchio continente torna a crollare. Cos'è cambiato in sole 3 settimane? Abbiamo chiesto a Fabrizio Fiorini, direttore investimenti diretti di Aletti Gestiel SGR. Il problema è che, come al solito, abbiamo avuto una buona dichiarazione di intenti e poi abbiamo peccato di presunzione. Io dico abbiamo perché siamo europei e onestamente penso che la colpa però di tutto ciò sia ancora una volta a far ricadere sulla Germania. È stata lanciata una buonissima idea da parte di Monti, questo scudo antispread, la necessità di applicarlo velocemente perché ovviamente era conoscenza di tutti che l'estate presentava dei rischi che purtroppo si stanno anche materializzando. È che, come al solito, facciamo annunci e non facciamo seguire fatti. L'annuncio era perfetto, l'idea era corretta e poi abbiamo commesso 2 piccoli errori che in realtà sono grandi errori. Il primo, come l'anno scorso, abbiamo detto fidatevi di noi, questa è la situazione, faremo lo scudo antispread, non vi diciamo neanche esattamente come faremo. Però scusate, andiamo in ferie, ci rivediamo il 12 di settembre quando la Corte Costituzionale tedesca ci dirà se possiamo farlo, e purtroppo la Germania è cardine in questo, quindi dobbiamo aspettare che loro ci dicano se possiamo, quindi abbiamo la volontà ma non sappiamo se possiamo farlo. E il secondo errore è stato quello di dire abbiamo capito qual è il problema, quindi dovete fidarvi di noi, dobbiamo interrompere il circolo vizioso banche debiti dello Stato, e poi dopo aver detto questo escono una settimana dopo esattamente prestando i soldi alla Spagna ma sottolineando il fatto che questo debito, questi soldi concessi al sistema bancario spagnolo, in realtà andranno a pesare sul debito spagnolo, e quindi in realtà hanno ripristinato il circolo vizioso debiti statali sistema finanziario. Allora vuol dire che una settimana prima, quando mi hai detto di aver capito il problema, in realtà mi hai mentito, oppure pensi che io ti debba credere per principio. Ecco, questi sono i 2 errori di base che hanno scatenato l'uscita probabilmente di investitori esteri dall'Europa, perché chiaramente non c'è chiarezza né su cosa possiamo fare al di là di quello che vogliamo e anche quando lo vogliamo come lo vogliamo fare, perché abbiamo detto una cosa e una settimana dopo l'abbiamo smentita. Quali ricette o soluzioni potrebbero far uscire l'Europa da questa crisi che, nonostante le ultime decisioni, sembra peggiorare sempre di più? Quale ruolo dovrebbero avere le istituzioni europee? Sentiamo Jacopo Ceccatelli, amministratore delegato di JC e Associati. Qui si tratta di fare uno scambio tra sovranità nazionale da un lato, dei paesi più deboli, e sostegno finanziario dall'altro, da parte ovviamente della Germania. Ormai è chiaro a tutti che o si va verso questa direzione in maniera decisa, oppure non le soluzioni che vengono proposte non hanno vita brevissima. Ecco, questo è un aspetto. L'altra cosa è che, se ci pensate, del Parlamento europeo non se ne parla mai in questa crisi, perché non ha nessun tipo di autorevolezza, neanche di potere, quindi è il voto politico giustamente il vero problema, che poi si traduce in tutta una serie di poi magari dichiarazioni estemporanee di questo o quel ministro che fanno danno.